Capitolo 8. La signora Rachel Lind sedeva alla finestra della cucina sferruzzando una coperta, proprio come una sera di tanti anni prima, quando Matthew Cuthbert se n'era tornato a casa dalla collina con quella che la signora Rachel aveva chiamato la sua orfana d'importazione. Ma allora era primavera, ora invece era autunno inoltrato e tutti i boschi erano spogli e i campi scuri e avvizziti. Il sole stava tramontando con un gran sfolgorio di porpora e di oro dietro i boschi scuri a occidente di Avonlea, quando un calessino, tirato da un pony color marrone, senza alcuna fretta cominciò a scendere la collina. La signora Rachel lo scrutò attentamente. «Ecco Marilla che torna a casa dal funerale», disse al marito che riposava sulla poltrona della cucina. Thomas Lind ora stava molto più in poltrona di quanto fosse sua abitudine, ma la signora Rachel, così pronta nel notare tutto ciò che accadeva fuori dalla sua casa, non se n'era ancora accorta. «E si è portata i gemelli! Sì! Ecco Davy che si spenzola dal parafango e afferra la coda del pony, e Marilla che con una scrollata lo tira indietro. Dora se ne sta seduta sul sedile, tutta composta e impettita, pare che sia stata appena inamidata e stirata. Beh... Povera Marilla, avrà il suo bel da fare quest'inverno, sta pur certo. Eppure non vedo cos'altro avrebbe potuto escogitare se non prenderli date le circostanze. E poi c'è Anna che l'aiuta. Anna è proprio un sollievo per tutta questa storia e veramente ci sa fare con i bambini, lo devo ammettere. Santo cielo, mi sembra ieri che il povero Matthew se n'è venuto a casa con Anna in persona e tutti ridevano all'idea di Marilla che allevava un bambino e ora ha adottato due gemelli». Non si finisce mai con le sorprese finché c'è vita. Il grasso pony trotterellò sul ponte della valletta dei Lind e lungo il viale di Green Gables. Il volto di Marilla era piuttosto imbronciato. Da East Grafton c'erano 10 miglia e pareva che Davy Keith fosse in preda al moto perpetuo. Tenerlo sotto e tranquillo era un'impresa che andava oltre la possibilità di Marilla, e per tutta la strada la povera donna era vissuta nell'angoscia che il ragazzo cadesse fuori dal calesse e si rompesse il collo, o capitombolasse oltre il parafango sotto gli zoccoli del pony. Disperata, alla fine minacciò di frustarlo di santa ragione una volta a casa. Allora Davy le si arrampicò in grembo e, senza curarsi delle redini, le gettò le braccia grassocce attorno al collo, avvinghiandola in un grande abbraccio. «Non penso che lo dica sul serio», disse baciando con affetto la guancia rugosa. «Non sembri una signora che frusta un ragazzino solo perché lui non riesce a star fermo». «Non lo trovavi insopportabile stare ferma quando eri piccola?» «No, stavo sempre tranquilla quando me lo dicevano», rispose Marilla cercando di parlare con tono severo anche se le si inteneriva il cuore alle impulsive carezze di Davy. «Beh, io penso che sia stato così perché eri una bambina», disse Davy tornando con una contorsione al suo posto dopo un'altra stretta. «Eri una bambina una volta, anche se adesso è molto buffo pensarlo». «Dora riesce a star ferma, ma io sono convinto che non si diverta molto. Mi sembra che sia noioso essere una bambina. Su, Dora, lascia che ti svegli un pochino». Il sistema di Davy per svegliare Dora consisteva nell'afferrarle i riccioli con le dita e nel dar loro una bella tiratina. Dora strillò e poi si mise a piangere. «Come puoi essere così cattivo proprio oggi che la tua povera madre è stata sepolta?» chiese Marilla, prossima alla disperazione. «Ma la mamma era contenta di morire», sussurrò Davy in tono confidenziale. «Lo so perché me l'ha detto lei. Era molto stanca di essere ammalata. Abbiamo parlato a lungo la notte prima che morisse. Mi ha detto che tu avevi intenzione di tenere me ed Dora per l'inverno e che dovevo essere un bravo bambino. Sarò bravo, ma non si può essere bravi anche muovendosi e agitandosi invece di star fermi. Mi ha detto anche che dovevo essere gentile con Dora e difenderla sempre, e lo farò». «E ti sembra che tirarle i capelli significhi essere gentile con lei?» «Beh, non permetterò a nessun altro di farlo», disse Davy, serrando i pugni e aggrottando la fronte. «Che ci provino. Sono contento di essere un maschio, ma non mi va di essere un gemello. Quando la sorella di Jimmy Sprott lo contraddice, lui le dice semplicemente «sono più grande di te e ne so più di te». E così la sistema. Ma io ad ora non posso dirlo e lei continua a pensarla in modo diverso da me». «Potresti lasciarmi guidare per un tratto il cavallino, dato che sono un maschio?» Nel complesso, Marilla tirò un sospiro di sollievo quando entrò nel cortile di casa, dove il vento della sera autunnale danzava con le foglie secche. Anna venne loro incontro al cancello e prese in braccio i gemelli per farli scendere. Dora si lasciò baciare con calma, ma Davy rispose al benvenuto di Anna, avvinghiandosi a lei e annunciando allegramente: «Sono il signor Davy Keith». Durante la cena a tavola, Dora si comportò da perfetta gentildonna, mentre Davy, in quanto a belle maniere, lasciò molto a desiderare. «Ho talmente fame che non ho neanche il tempo di mangiare come si deve», disse quando Marilla lo rimproverò. «Dora non ha nemmeno la metà della mia fame. Pensa a tutta la ginnastica che ho fatto per strada. Quella torta sembra molto buona e appetitosa, e da tanto tempo che non mangiavamo torte a casa perché mamma era troppo ammalata per farne una e la signora Sprott diceva che più che cuocerci il pane non poteva fare. E la signora Wiggins nei suoi dolci non ci metteva mai l'uva passa. Accipicchia a lei, posso averne un altro pezzo?» Marilla era pronta a dire di no, ma Anna gliene tagliò un'altra fetta abbondante. Tuttavia ricordò a Davy che doveva dire grazie. Davy si limitò a sorriderle e diede un grosso morso alla fetta. Quando poi ebbe finito la fetta, disse: «Se me ne dai un altro pezzo, ti dico grazie». «No, di torta ne hai avuta abbastanza», intervenne Marilla con un tono che Anna ben conosceva e che Davy avrebbe ben presto imparato a riconoscere come definitivo. Davy strizzò l'occhio ad Anna e poi, chinatosi sul tavolo, strappò il primo pezzo della torta di Dora, che ne aveva appena assaggiato un boccone, dalle sue stesse mani e, spalancando la bocca più che poté, ingoiò l'intera fetta. Il labbro di Dora tremò e Marilla rimase muta per il disappunto. Anna, assumendo il più possibile un tono professorale, esclamò con prontezza: «Oh, Davy, un gentiluomo non si comporta in questo modo!» «Lo so benissimo», rispose il bambino appena fu in grado di parlare, «ma io non sono un gentiluomo». «E non desideri esserlo?» chiese Anna. «Certo che sì, ma uno non può essere un gentiluomo finché non è cresciuto». «Oh sì che può», s'affrettò a dire Anna, che vedeva aprirsi uno spiraglio per seminare un buon seme. «Puoi cominciare a essere un gentiluomo fin da piccolo. E i gentiluomini non strappano mai niente dalle mani delle signore, né si dimenticano di dire grazie, né tirano i capelli, mai, a nessuno». «Allora vuol dire che non si sanno divertire», ribatté Davy. «Credo che aspetterò un bel po' prima di diventare grande per essere un gentiluomo». Marilla, con aria rassegnata, aveva tagliato un'altra fetta di torta per Dora. Non si sentiva in condizioni di tenere testa a Davy in quel momento. Aveva avuto una giornata dura, sia per il funerale, sia per il lungo tragitto. Guardava al futuro con un pessimismo che non era da meno di quello della stessa Eliza Andrew. I due gemelli non si assomigliavano in modo visibile, pur essendo entrambi biondi. Dora aveva dei lunghi boccoli lustri e lisci che non erano mai in disordine. Davy aveva una quantità di riccioloni crespi e gialli attorno alla testina tonda. Gli occhi color nocciola di Dora erano dolci e mansueti, quelli di Davy birichini e vivaci come quelli di un folletto. Dora aveva un nasino dritto, quello di Davy era decisamente all'insù. Dora aveva una boccuccia un po' leziosa, quella di Davy era tutta un sorriso, e per giunta aveva una fossetta in una guancia e niente nell'altra, il che gli dava un aspetto asimmetrico, tenero e buffo quando rideva. Gaiezza e monelleria si celavano in ogni angolo del suo visetto. «Meglio mandarli a letto», disse Marilla, che pensava fosse quella la maniera più semplice di sbarazzarsi di loro. «Dora dormirà con me e tu puoi mettere Davy nell'abbaino a ponente. Non hai paura di dormire solo, vero Davy?» «No, ma non ho alcuna intenzione di andare a letto per ora», rispose Davy deciso. «Oh, sì che ci andrai a letto!» E fu tutto quello che disse Marilla, già duramente provata. Ma qualcosa, nel suo tono, ridusse al silenzio anche Davy, così che egli trotterellò obbediente su per le scale, insieme con Anna. «Quando sarò grande, la prima cosa che farò sarà quella di restare alzato tutta la notte, solo per vedere l'effetto che fa», le disse in confidenza. Negli anni che seguirono, Marilla non riuscì mai a rammentare senza un certo brivido quella prima settimana in cui i gemelli soggiornarono a Green Gables. Non che fosse stata peggiore di quelle che seguirono, ma lo parve di fatto a causa della novità della cosa. Era raro trovare un momento della giornata in cui Davy non stesse combinando qualche birichinata o la stesse meditando, ma la sua prima impresa, degna di nota, la compì due giorni dopo il suo arrivo, una domenica mattina, una bella giornata calda, alquanto caliginosa e mite, come lo sono le giornate di settembre. Anna lo vestì per andare in chiesa, mentre Marilla si occupava di Dora. David apprima si ribellò con violenza all'idea di farsi lavare la faccia. Marilla me l'ha lavata ieri e la signora Wiggins me l'ha strofinata ben bene con il sapone il giorno del funerale e abbastanza per una settimana. Non vedo che gusto ci sia essere tanto puliti, è molto più comodo restare sporchi. Paul Irving si lava la faccia ogni giorno senza che nessuno glielo dica, disse Anna con una mossa astuta. Davy abitava a Green Gables da poco più di 48 ore, ma già adorava Anna e detestava Paul Irving, dopo averne sentito tessere gli elogi entusiasti da Anna il giorno dopo il suo arrivo. Se Paul Irving si lavava la faccia ogni giorno, la faccenda era bella risolta. Lui, Davy Keith, avrebbe fatto altrettanto anche a costo di morire. La stessa considerazione lo indusse a sottostare con mansuetudine agli altri dettagli della sua toeletta, e quando tutto fu finito, era veramente un bel ragazzino. Anna provò un orgoglio quasi materno mentre si avviava con lui al vecchio banco dei Cuthbert. Da principio Davy si comportò correttamente, occupato com'era a lanciare sguardi di sfuggita a tutti i bambini in vista, chiedendosi chi di loro fosse Paul Irving. I primi due inni e la lettura del Vangelo passarono senza storia. Il signor Allan stava pregando quando avvenne il fatto sensazionale. Loretta White sedeva davanti a Davy, la testa piegata leggermente e i bei capelli acconciati in due lunghe trecce, tra le quali si intravedeva, rinchiuso entro una morbida gala di merletto, un tratto tentatore di collo bianco. Loretta era una bambina placida e grassoccia di 8 anni che aveva sempre mantenuto in chiesa un comportamento irreprensibile, fin dal primo giorno in cui sua madre ve l'aveva condotta, all'età di appena 6 mesi. Davy si cacciò la mano in tasca e ne strasse un bruco peloso che si contorceva tutto. Marilla lo vide e fece l'atto di afferrargli il braccio, ma era troppo tardi. Davy fece scivolare il bruco nel collo di Loretta. Nel bel mezzo della preghiera del signor Allan si udì allora una serie di urla strazianti. Il pastore si interruppe sgomento e aprì gli occhi. Tutte le teste della congregazione si sollevarono. Loretta White nel suo banco pareva in preda al ballo di San Vito e cercava freneticamente di afferrare qualcosa giù per la schiena. Oh mamma, mamma, toglimelo! Oh, quel ragazzaccio me l'ha messo nel collo! Oh mamma, mamma, sta scendendo! Oh, ioi, ioi, ioi! La signora White si alzò col volto teso, rigido, e portò l'isterica Loretta che si divincolava fuori dalla chiesa. Le urla andarono perdendosi in lontananza. Il signor Allan proseguì la funzione, ma tutti sentirono che quel giorno era stato un disastro. Per la prima volta in vita sua, Marilla non riuscì a seguire la funzione e Anna restò seduta con le guance infuocate per la mortificazione. Quando arrivarono a casa, Marilla mise Davy a letto e gli intimò di restarvi per il resto della giornata. Non gli diede la colazione, ma gli permise un tè con latte e pane. Anna glielo portò in camera e sedette avvilita accanto a lui mentre mangiava con gusto, senza avere l'aria di essere minimamente pentito. Ma gli occhi tristi di Anna lo turbarono. Immagino, disse pensoso, che Paul Irving non avrebbe mai infilato un bruco nel collo di una ragazzina in chiesa, o sbaglio? Credo proprio di no, disse Anna addolorata. Beh, allora mi dispiace un po' di averlo fatto, concesse Davy. Ma era così bello e grosso quel bruco. L'ho raccolto sui gradini della chiesa proprio nell'entrare. Mi sembrava un peccato sprecarlo. Ma dimmi, non è stato divertente sentire gli strilli di quella ragazzina? Il martedì pomeriggio c'era la riunione a Green Gables della società di mutuo soccorso. Anna si precipitò a casa dalla scuola, sapendo che Marilla avrebbe avuto bisogno di tutto l'aiuto possibile. Dora, pulita e in ordine nel suo abitino bianco con la fascia nera, sedeva con le signore in salotto parlando tutta contegnosa quando veniva interrogata e standosene zitta in caso contrario e comportandosi in ogni modo come una bambina modello. Davy, tutto sporco e beato, faceva torte di fango nel cortile. «Gli ho dato io il permesso», disse Marilla con aria rassegnata. Ho pensato che così avrebbe evitato di fare mestieri peggiori. In questo modo l'unica cosa che può fare è sporcarsi. Prenderemo prima il tè noi e poi lui prenderà il suo. Dora può prenderlo con noi, ma non mi azzarderei mai a far stare Davy seduto a tavola con tutte le signore della società qui riunite. Quando Anna andò a chiamare gli ospiti per avvertire che il tè era pronto in salotto, Dora non c'era. La signora Bell disse che Davy era comparso sulla soglia di casa e l'aveva chiamata pregandola di andar fuori. Una rapida consultazione con Marilla nel tinello portò alla decisione che tutti e due i bambini avrebbero preso il tè insieme più tardi. Il tè era quasi terminato quando sulla soglia della sala da pranzo si presentò una figuretta irriconoscibile. Marilla e Anna la fissarono sbigottite, le altre signore esterrefatte. Possibile che fosse Dora, quell'essere indefinibile e singhiozzante, con il vestito tutto bagnato e gocciolante e con i capelli inzuppati d'acqua che colava sul tappeto nuovo di Marilla? Dora, che cosa ti è successo? Gridò Anna con un'occhiata colpevole alla signora Bell, la cui famiglia, si sussurrava, fosse l'unica al mondo in cui non si verificava mai un accidente. Davy mi ha fatto camminare sullo steccato del recinto dei maiali, gemette Dora. Io non volevo, ma mi ha detto che ero paurosa come un coniglio. Così sono caduta dentro il recinto, mi si è sporcato tutto il vestito e mi è venuto addosso il maiale. Il vestito era un vero disastro, ma Davy ha detto che se mi mettevo sotto la pompa lui me lo avrebbe pulito. E così ho fatto, e lui mi ha inzuppata d'acqua. Ma il vestito non si è pulito affatto e la mia fascia e le scarpine sono rovinate per sempre. Anna restò sola a fare gli onori di casa per il resto del tè, mentre Marilla, salita di sopra, rivestiva Dora con i suoi vecchi abiti. Davy fu acchiappato e spedito a letto senza cena. Al crepuscolo Anna andò in camera sua e gli parlò seriamente, sistema in cui aveva una gran fiducia, ma non del tutto giustificata, dati i risultati. Anna gli disse che era molto rattristata dalla sua condotta. «Anch'io sono dispiaciuto», ammise Davy. Ma il guaio è che non mi dispiace mai di fare le cose finché non le ho fatte. Dora non voleva aiutarmi a fare le torte perché aveva paura di sporcarsi tutti i vestiti e questo mi ha fatto morire di rabbia. Credo che Paul Irving non avrebbe costretto sua sorella a camminare sullo steccato del recinto dei maiali se era sicuro che lei poi ci cadeva dentro, eh? No, non gli sarebbe neanche venuto in mente di fare una cosa simile, rispose Anna. Paul, piccolo com'è, è veramente un gentiluomo. Davy strizzò gli occhi, li chiuse e parve meditare alquanto su questo fatto. Poi si alzò e gettò le braccia attorno al collo di Anna, nascondendo sulla sua spalla un visetto rosso di vergogna. «Anna, mi vuoi un po' di bene, anche se non sono un bravo bambino come Paul?» «Certo che te ne voglio», disse Anna sinceramente. In qualche modo era impossibile non voler bene a Davy. Ma te ne vorrei ancora di più se tu non fossi così cattivo. Ho fatto un'altra cosa oggi, proseguì Davy con voce smorzata. Ora me ne dispiace, ma ho una paura tremenda di dirtelo. Non ti arrabbierai molto, eh? E non lo dirai a Marilla, eh? Non lo so, Davy, forse dovrei dirglielo, ma credo di poterti promettere che starò zitta se tu mi prometti che non lo farai più, qualsiasi cosa sia. No, non lo farò mai più. E comunque non credo sia facile per quest'anno ne trovi degli altri, questo l'ho trovato sui gradini della cantina. Ma Davy, che hai fatto? Ho messo un rospo nel letto di Marilla. Puoi andare a toglierlo se vuoi, ma Anna, non credi che sarebbe divertente lasciarcelo? Davy Keith! Anna si strappò al suo abbraccio e volò attraverso l'atrio fino alla stanza di Marilla. Il letto era un po' sgualcito. Con nervosismo tirò in fretta indietro le coperte e lì, a dire tutta quanta la verità, se ne stava il rospo che le strizzava l'occhietto da sotto il cuscino. «Come posso fare a portare fuori di qui questo disgustoso animale?» si lamentò Anna con un brivido. Le venne in mente la paletta del fuoco e scivolò silenziosamente giù a prenderla, mentre Marilla era occupata nel tinello. Anna ebbe il suo da fare a portare giù il rospo, che saltò fuori dalla pala per ben tre volte, e una volta credette persino di averlo perduto nell'ingresso. Quando finalmente lo depositò nel frutteto dei ciliegi, tirò un lungo respiro di sollievo. Se Marilla lo viene a sapere, non si fiderà mai più di andare a letto, per tutto il tempo che vive. Sono così contenta che quel piccolo peccatore si sia pentito in tempo. Ma ecco Diana che mi fa i segnali dalla finestra. Oh, che gioia! Ho davvero bisogno di una distrazione, perché tra Anthony Pye a scuola e Davy Keith a casa, il mio sistema nervoso ha già avuto la sua parte per oggi.